Barisoni si sveglia ed osserva le foglie di Excel. Barisoni vestito stirato e dopo barba Chanel. Ma e c'è Barisoni? Barisoni che ci ricorda che la borsa è amara, che la vita va avanti anche se ritarda la zanzara. Ma noi c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo. Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è no. Gioia. I will be the greatest president that God ever created. Parenzo, amico mio, io ti voglio bene, ma lascia stare Gerusalemme, lascia stare Gerusalemme. Detto da Musli, lascia stare Gerusalemme, tu cammini a Gerusalemme. Well, you're all grown up, not a school girl playing for fun. Lascia stare Gerusalemme. I'm your Dustin Hoffman, you're my Mrs. Robinson. Tu cammini a Gerusalemme. Come te dico io, caro Cruciani, che sono 3.000 anni che stanno a rompere il cazzo a tutto il mondo, capito? Da quando che sono scappati da Egitto? Da quando che Mosè ha aperto il mare, capito? Che poi dopo è andato sul Monte Sinai a accettare le tavole dei 10 comandamenti, che è riscesa a trovare a adorare il vitello d'oro e lì è arrivata la prima maledizione, hai capito? Sono 3.000 anni che stanno a rompere il cazzo a tutto il mondo. Ma tu dimmi se non è vero, tu dimmi se non è vero. Ma vaffanculo Parenzo, la capitale della Palestina è Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale della Palestina, capito? Che loro chiamano la famosa terra promessa. Ma chi gli ha lasciato il padre? Ma terra promessa da chi? Da chi? Ma da chi? La terra promessa che l'hanno invasa l'anima degli mortacci loro, da americani e degli inglesi, che l'hanno combinato poco piccolo il casino. E ancora gli americani stanno a romper cazzo. Vedrai che è quello che succede. Ciao Cruciani, a Parenzo, so 3.000 anni che è stato a romper cazzo a tutto il mondo. Ciao Cruciani, ciao ciao. Let's hear it for the women. Ciao ciao. Parenzo, speriamo che te becca un negro e ti spezza il pene dietro, Parenzo. Sei una luta, Parenzo. Scusa, David, ma tu hai sentito? Trovo incredibile ragionare su temi che le guardano il Middle East e il futuro, come dice Trump, Middle East e il futuro di quella zona, con un signore. Con un signore non che ha la terza elementare, perché figuriamoci, non è quello il punto. Signor il Quirico! Tema. Con signor... col signor Quirico. Che trovo incredibile. Trovo incredibile. Io che sono appena tornato da Tel Aviv, che ho passato delle giornate a discutere con uno dei più grandi intellettuali al mondo, che è il signor Abraham Yoshua, autore di libri straordinari come L'amante, Il divorzio tardivo, lo straordinario libro del signor Mani, un uomo che è tradotto in tutto il mondo. Con lui parlo di Medio Oriente, chiama uno stronzo qualunque, perché così va definito, che per carità ha la sua opinione. un'opinione legittima, ma permettimi di non interloquire in alcun modo, avendo fatto una ottima colazione qualche giorno ma fa perché? Con uno dei più grandi scrittori viventi. Non parlo con quello stronzo, è un mio diritto, non mi interessa. Perché non mi interessa? Ma è la voce del popolo, è la voce che viene dal basso. È la voce di un coglione, non del popolo. Non c'entra la voce del popolo, è la voce di un coglione, di un disturbato, di un malato di mente, di un poveretto. Ma è la voce di se vuoi risolvere alcune questioni devi confrontarti anche con quello che dice Quirico, con quello che dice Zio. Ma Quirico, di che cosa parla Quirico? Quirico è un poveretto, è un disturbato che è diventato vagamente noto per colpa di questa trasmissione. Tra le tante responsabilità che ha questa trasmissione è quella di dar voce anche a un imbecille qualunque. Ma no! E pensa che la sua opinione valga quanto quella di Yoshua. Ma certo, assolutamente. Ma vale in che termini? Detto una cosa, ma non ha nessun peso specifico, perché è una minchiata, perché è un imbecille, è un idiota. Comunque devo dire la verità che Quirico, che avete ascoltato prima, ragazzi, perché non avesse capito, è il giornalista della stampa. No, perché diciamo, non avesse capito, ecco, il camionista che ci chiama spesso. Ma adesso dai, il camionista è un imbecille. Adesso, indipendentemente, potrebbe essere anche un notaio. Non lo è, guarda caso. Però è un imbecille. Diciamo che è un imbecille. No, no, assolutamente essere anche no. un notaio. Che però non devo dire, notaio, ha fatto la sua. Se la dice un comunista questa roba qui, se la dice un Giulietto Chiesa, gli dai un valore. Esiste solo Domenico Quirico della stampa. Solo Quirico Domenico esiste. Gli altri Quirico non me ne frega nulla. Posso? Per carità, per carità. È legittimo. Oh. Allora ragazzi, diciamo subito una cosa. Forza Nuova. Che c'è Forza, Forza Nuova? Forza Nuova, appello agli amici antifascisti. Non usiamo più la questione fascismo, antifascismo, no. C'è un nuovo grande argomento che questa trasmissione ha scoperchiato. Il signor Fiore, ti ricordi come cantava De André? Dal cemento non nasce niente, dalla merda nasce il fiore. Cantava così De André, no? Mi sembra un po' eccessivo. Querelassero De André, querelassero De André. Dal cemento non nasce niente, dalla merda nasce fiore. Cioè, gli hai dato della merda. Vabbè, no, d'accordo, così siamo passati. Ma l'ha scritto De André. Vabbè, allora. Attenzione. Però lasciamo stare questo. Questo fa il nazionalista. Italia, Italia, l'Italia, gli italiani. Vive a Londra. Ma non vive a Londra. Paga le tasse a Bruxelles. No, ognuno paga le tasse dove vuole. E non vuole lo Ius Soli. Lui è lo Ius Sola. Da oggi bisogna fare così. Hashtag Forza Nuova Ius Sola. Vabbè. Perché questo signore vive a Londra. Ma non vive a Londra. Paga le tasse a Bruxelles. E poi l'Italia agli italiani. Pagasse le tasse in Italia. Sola. Le paga a Londra e a Bruxelles, dove ha le società, sola. Non so, ma insomma fa qualcosa di illegale. Se fa qualcosa di illegale lo pizzicassero, no? Lo andassero a prendere. Ho detto semplicemente la contraddizione di questo individuo. Solo questo ho detto. Allora, volevo ricordarvi che quella voce iniziale che avete sentito sul signor Barisoni è un piccolo regalo, caro Parenzo, che ci ha fatto un giovane, perché in Italia si chiedono, sono tutti giovani, 36 anni, classe 1981, tu non la sai nemmeno questa cosa, un piccolo regalo che ci ha fatto un cantautore abbastanza noto che si chiama Il Cile, chiaro? Che ringrazio naturalmente, grande ascoltatore della Zanzara. E però, ragazzi miei, qui succede che cosa? Mentre tutti parlano di altre cose, eccetera, io mi occupo soprattutto di cose piccoline, ogni tanto che riguardano, però, come dire, carne... È vero, è dai diamanti non nasce niente, quello che diceva De Andrea, dai diamanti, giustamente sì. Ricorda, dai diamanti non nasce niente. E poi come continua? Non lo so, dimmelo tu. E poi dimmelo come tu. Fa poi? E dimmelo tu, tanto dopo la mettiamo. Amico come, mio, da, amico da, mio. Dalla merda nasce dai il fiore. Dai diamanti non nasce niente. De Andrea, ragazzi, De Andrea. E poi? Ma non mi ricordo. Appunto. Allora, ragazzi, io mi occupo, dicevo, di piccole cose che però sono la carne viva delle persone. In questo caso la carne per davvero, perché il comune di Rimini, amici miei, Fellini si rivolta nella tomba! Il comune di Rimini, luogo della perdizione, luogo del sesso sfrenato, luogo per antonomasia della libertà. della libertà. Il sindaco di Rimini cosa fa? Perché dice per il decoro, ma soprattutto per sfruttare, contro lo sfruttamento della la prostituzione è sfruttamento degli esseri umani, scrive l'amministrazione comunale di Rimini, e da oggi fino ad aprile, poi non si capisce perché da oggi fino ad aprile, comunque vabbè, saranno affari loro di questa amministrazione comunale, fanno un'ordinanza che prevede carcere, il carcere per chi va a puttane, il carcere e delle multe. Ma benissimo, cosa, il tuo idolo è questo qua, il sindaco, non mi ricordo come si chiama, Gnassi, credo, un renziano, se ancora ne sono rimasti di renziano in Italia. Signor Gnassi, sindaco di Rimini, fa un'ordinanza in cui scrive la prostituzione e sfruttamento degli esseri umani, no! La prostituzione è libertà, questo bisognerebbe scrivere, all'ingresso di Rimini, la prostituzione è libertà. Punisco a Rimini puniscono i clienti delle prostitute, mi fa diventare matto questa cosa. Dovrebbero scrivere all'ingresso della città di Rimini la prostituzione è libertà. David, ti prego, dai, ripetimelo. C'è tensione, tradimento. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio. È finita la pacchia, Crucio, è finita la pacchia qui, ormai il popolo della Zanzara ti sta detronizzando. Viva Parenzo, unico leader assoluto, leader massimo della Zanzara. Parenzo, una cosa è certa, se c'era il Duce, a quest'ora non avevamo problema né di immigrati né di rom che rompevano i coglioni. Sì, Parenzo però dovrebbe anche, prima di fare una citazione di una canzone, dovrebbe anche sapere bene le parole. Ci andava altrimenti... un po' a memoria, non era la merda dell'illettante. Allora, giustamente, signor Pupo. Grande Pupo. Grande mi Pupo. Segnala che grande. Cosa? Mi segnala, dai diamanti non nasce niente, il cemento non c'entra nulla, anzi ha scritto non c'entra un cazzo, sì. Dall'etame nascono i fiori. Dall'etame nascono i fiori. Pensavo un fiore. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame poi nasce fiore. I fiori, me l'avevano insegnata così. Scusa, me l'avevano insegnata diversamente. Chiedo scusa allora. Ma tu vuoi proprio essere portato in tribunale da questi chiedo di Forza scusa, Nuova? C'è tensione, tradimento. Chiedo scusa, me l'avevano insegnata in un altro modo. Il senso rimane sempre quello. Comunque è evidente che dal letame nascono i fiori. Questo mi pare evidente, no? Allora, altro piccolo fatto che però è la fotografia dell'Italia, cari amici miei, oltre alla vicenda di cui vi parlavo prima, oltre alla vicenda di Rimini, incredibile, a Rimini, invece di elogiare le prostitute, invece di elogiarle vogliono attenzione, punire i clienti. L'avvocato Trucco segnala, ma perché non siete in diretta? Dico, lo siamo. Ah sì, ma l'avvocato Trucco, lascialo perdere. Perché, poveretto? Ma lascialo perdere, fargli, che non sa niente, perché non siamo in diretta? Lui è a Roma, niente, io sono a Milano. Sta ascoltando, non capisco perché dica... No, è un allarme, magari non siamo sentiti, non ma lo che so. Cazzo me ne frega, non lo so. Cioè. Allora, a Carpanedo, vicino al Vignasco, credo Padova, un 79enne... Carpanedo, 79enne, un signore di 79 anni, abita sopra una tabaccheria, un alimentari che ha affittato a dei cinesi. D'accordo. Un 79enne, per sventare il furto, sente dei rumori, per sventare il furto spara in aria 6 colpi con una doppietta che tiene lì, 79 anni. Non spara ai ladri, come a mio parere avrebbe dovuto. Senza correre alcun tipo di pericolo perché sta difendendo una sua proprietà. Ma non spara ai ladri. Siamo d'accordo. Non spara ai ladri. Spara 6 colpi in aria. Siamo d'accordo. Allora, cosa succede? I ladri scappano lasciandolo le furtiva là. Ovviamente, dunque, le furtiva, diciamo, danni limitati. E però il signore viene indagato. Gli tolgono forse il fucile. Viene indagato per non mi ricordo che cosa. Ragazzi, basta con questa roba qua. Se uno spara in aria e fa scappare i ladri, andrebbe premiato dalla società. Andrebbe premiato con una medaglia al petto, una medaglia al valore. Spari in aria 6 colpi, invece ma no. Infatti, nessuno... Indagini, avvocato da pagare, eccetera, eccetera. Ragazzi, se vi sembra normale, se a te sembra normale, Parenzo, a me non sembra normale. Yeah! Altra cosa, ma scusa, tu non vedevi le elezioni di Trump come la catastrofe mondiale? Ho ancora degli audio. No, ho ancora è un personaggio che è in grado di sorprendere. Beh, è un personaggio, certo, che non si può ridurre. Adesso gli hai leccato il deretano. Adesso non gli leccato niente a nessuno. Ha fatto un atto dovuto. Ha avuto un grande atto di coraggio, perché nessun presidente americano, erano 20 anni che il congresso americano aveva votato una cosa ovvia. Perché è come dire: gli lecchi il deretano. Qual è adesso la capitale gli di Parigi? Il deretano, ma scusami, della Francia, dici. Qual è la capitale della Francia? Qual è, scusami? Parigi, vabbè. Benissimo, molto bene. La capitale dell'Inghilterra, qual è? Ma che c'entra, dai? La capitale degli Stati Uniti. Non puoi non dire che non ci sono controversie. Controversie. Comunque, sono controversi. Gerusalemme, dov'è il Parlamento israeliano? Dove ha sede? La Knesset, sì. Dove ha sede? A Gerusalemme. Ma che c'è? Quindi questo è ovvio che avete deciso voi, che c'entra? Ma voi chi? Gerusalemme è la capitale israeliana. Ma ho capito, però si può dire che tu adesso gli lecchi il deretano a Trump? Sei costretto a leccargli il deretano? No, sono costretto a leccare niente. Riconosco che ha fatto un atto anche interessante, coraggioso. Doveva essere la catastrofe mondiale. Che è in grado forse di sparigliare gli equilibri internazionali. Adesso vedremo se darà seguito e riuscirà a mettere intorno al tavolo i protagonisti per costruire la pace vera. Questo ne parli con Joshua di queste puttanate. Il vecchio che ha sparato, datemi il 79enne che ha sparato, vai. Abbiamo visti bene, erano in tre, erano incappucciati, e ho detto vate via, perché se no questo veniva i carabinieri. Sono delinquenti, basta. Questa è l'Italia, che c'è tanta delinquenza, bisogna cercare di difendersi il meglio che si può. Va abbracciato quest'uomo, non indagato, va abbracciato, premiato, portato in trionfo, liberato dal gioco della giustizia, non deve nominare un avvocato. Perché? Certo, non va nominato un avvocato, non deve sobbarcarsi le spese di un avvocato che non ci avrà manco un euro questo qua. Ti dovrà pagare. Va abbracciato fortissimo. Se si fosse votata quella legge per cui lo Stato risarcisce l'avvocato del signore. Ma ti devi vergognare, per tutto quello che hai detto in questi anni, ti devi vergognare e basta, dai. Michele da Bari. Ho detto che se si spara si apre ovviamente un fascicolo per capire com'è andata, Michele, ma questo è evidente. Michele. Pronto? Oh, dimmi. Buonasera. Vai. Caro Lorenzo, caro Cruciani, Michele da Bari, l'assuntore dei neri, sai? Non ho capito, scusami. L'assuntore dei neri. Ah, sei quello che assume solo i neri, sì. Sì, quello che l'ultimo è un cubano. L'ultimo è un cubano, vabbè, niente. Non ho capito, che hai fatto? Hai assunto un cubano invece di un italiano, così per sfregio? Sì. Ma io non ci credo a questa cosa qua, Michele, dai, non è possibile. Allora, ascolta, apriti un'azienda, assumi 20 neri e poi vediamo. Ti ho detto l'altra volta che assumendo gli italiani, sai che succede, che è successo? Mi avevano fatto fallire, perché durante il periodo della raccolta delle olive, certificati medici, durante il periodo della vendemmia, certificati medici. Io con questi sto tranquilli, ma non ci credi, sono lavoratori. Ma tu sei una vergogna dell'Italia, sei la vergogna dell'Italia, comunque lasciamo perdere. Anche tu. Ma io non sono la vergogna di niente. Ma perché dovrebbe essere la vergogna di niente? Ma assume solo i neri per principio, perché gli fa più comodo questo qua, i neri, gli immigrati o quello che è, gli extracomunitari, adesso dico neri per comodità. Devi essere sempre contro di tutti. Tu dici sempre che questa è una nazione di merda, ma è una nazione di merda o non lo è? Ma che c'entra? Scusa, perché tu dici allora bisogna far lavorare gli extracomunitari come fai tu? Beh, lui bisognerebbe incoraggiarlo, gente così. Io mi trovo bene. Ma per questo che hai chiamato? Tu. Hai chiamato per questo? Perché hai chiamato? No, per la prostituzione, che come al solito tu. Senti, volevo dire una cosa, ma quell'imbecille che dici Parenzo va trans. Parenzo va Trump, quello non sa pronunciare Trump. Ma quella è una canzone, è una canzoncina, Michele. Non ho capito che cosa volevi dire sulla prostituzione, scusa, Michele. Niente, è un reato. Ma non è un reato, non è un reato. Perché è libertà, dimmelo. Ma è libertà, perché? È libertà. È la polizia che decide se è schiavitù o no quando qualcuno è schiavizzato. Il resto è libertà, libertà, do ut des. Do qualcosa in cambio di un'altra cosa, la donna ottiene un vantaggio. Cioè denaro è quello che vuole la donna o l'uomo che sia. Ci sono anche degli uomini che si prostituiscono, Michele, sì. Questa è la libertà. Dove non c'è prostituzione c'è dittatura. Dove c'era la prostituzione però di nascosto, la prostituzione al potere, come dice Parenzo. Dove c'è dittatura la prostituzione, sei sicuro che non c'è o è nascosta? Poi il fatto che sia sulle strade è meglio, è molto meglio in teoria. Io la vorrei in un altro modo, ma certo, sulle strade la vera prostituzione, quella diciamo dei magnaccia o quella degli schiavisti, strada. No, ma non è che è alla luce del sole, quelli sono quattro gatti, dai, fermi tutti, fermi. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Che cosa, mio nipote? Ha I'm Lily and I'm 7 years old and I'm from Australia and I think La Zanzara is the best program ever. Bye. Hi, I'm Cecilia from Sheffield, England and I think La Zanzara is the best radio program ever. It's the best program ever. Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. La Zanzara is the best radio program ever. Bye. Lorenzo, si lavi la bocca prima di parlare di stupida. Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. La Zanzara. Figli della Zanzara e della libertà, fratelli miei, vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Ci sarà un giorno in cui la libertà di parlare in radio cederà, in cui abbandoneremo i puttanieri e spezzeremo ogni legame con i razzisti. Ma non è questo il giorno. Ci sarà l'ora dei perbenisti e dei coglioni frantumati quando l'era della libertà d'espressione arriverà al crollo. Ma non è questo il giorno. Quest'oggi discutiamo di tutto ciò che ritenete tabù o proibito in questa bella radio. Vi invito ad intervenire, fratelli italiani! Italiani! Finalmente qualcuno che fa il culo a Parenzo sulla questione di Israele. Lo Stato di Israele è uno Stato comprato, è uno Stato che non esiste, è artificiale. Quello Stato è la Palestina, che gli ebrei sionisti hanno colonizzato e comprato. La risposta di Parenzo è stata, ma quelli hanno eletto Hamas. E che c'entra? È mica una risposta. Non, Parenzo non sa rispondere perché non c'è una risposta. Perché quello che dice quell'ascoltatore è la verità. Dell'Utri avrebbe detto... Mi sento stanco e provato. Cazzo, Dell'Utri, sei in galera, porca troia, in galera. Cosa credi che stiano gli altri? Bene? Allora ragazzi, posso dire una cosa? Sono le 19:22, caro Parenzo, le 19:22. Non ti faccio commentare l'ascoltatore su Israele, no, se no ricominciamo di nuovo. Vabbè, è un'opinione, è un'opinione. Non ti faccio commentare quello che ha detto l'ultimo ascoltatore in questo intervento che ha fatto tramite WhatsApp. Voglio dire una cosa, sono le 19:22. Io mi devo sorbire due fottutissimi minuti di informazioni per chi viaggia. Quando oggi, amico mio, prendi il 99,9%. 99,9% di coloro che sono in macchina non mettono la radio, vanno sul telefonino, mettono Google Maps, Google minchia, c'è un'altra applicazione per non fare favoritismi, non mi ricordo come si chiama. Sì, Waze, mi dicono vai lì e ti dicono pure i peli del buco del culo in quel momento del passante sulla statale 48 515 della minchia. È un ottimo servizio, questo è ottimo perché non mi fare parlare, non mi fare servizio, parlare. Due minuti per dire che adesso intorno ai centri urbani c'è traffico alle 19:23 di ritorno. Sì, beh, normale, c'è traffico. Vado ai pazzi. Quello tutto con la voce tutta compita. Due minuti, vaffanculo. Quando si è aperto prima il microfono, ogni tanto si apre il microfono qui, anzi lo apro io naturalmente, commetto un errore, si è sentito pazzesco, per fortuna si è sentito solo pazzesco, ma il riferimento era a pazzesco ai due minuti. Qui c'è gente che vuole intervenire, gente caldissima che vuole intervenire e noi dobbiamo sentire che c'è traffico intorno ai centri urbani. Gente inutile che vuole intervenire. Porca puttana, preferisco il traffico. Una cosa, le strade in diretta saranno anche utili, no, ma sono una boiata pazzesca. Lo diceva Giulianone tempo fa già, tempo addietro. Per fortuna è vivo e lotta insieme a noi. Giovanni da Varese, vai Giovanni, vai, forza. Volevo dire mille cose, non le posso dire. Non le posso dire perché non c'è tempo. Devo togliere spazio agli ascoltatori. Spacco l'orologio qui davanti. Cosa devo fare? Che meraviglia, togliere spazio agli ascoltatori. Che meraviglia. No, lasciatemelo lo spazio, lasciatemelo, vi prego. Vai, dimmi amico mio, dimmi. allora, Wazer, ah, peraltro, l'app che hai detto è israeliana. L'app che tu hai citato, qual è il problema? Io sono un grande tifoso israeliano. Cazzo, me lo sottolinea Robert Hannuna, che mi ha appena scritto Wazer è israeliana. Sì, Giovanni, tutte le strade portano a Gerusalemme. Mi ha appena scritto Hannuna. Ascolta, io non, tendenzialmente sono d'accordo con te sul discorso della prostituzione, però. Gnassi non è assolutamente la mia parte politica, anzi penso che sia un pessimo sindaco. Stiamo parlando del sindaco di Rimini, esatto. Quale nella città, per definizione della libertà, una volta per carità, eccetera, si è inventato la multa, il carcere per i clienti, forse pure anche però per i prostituti. Vedi Giuseppe, io a Rimini ci vado da quando sono nato, con la famiglia, vacanza, solite cose, vabbè, no? Allora, e le vedo io le prostitute che sono lì, quelle effettivamente ti devo dire che sfruttate lo sono. Ma che ne sai, che fai il sociologo, il prete di strada, il capo della polizia di Rimini? No, perché senti, amico mio, qualsiasi lì, poliziotto con cui io ho parlato, lascia perdere Rimini, si vedono e si vedono i che papponi che i papponi passano, si vedono, che sì, si fanno vedere, si che vanno lì a controllare, ma ragazzi, se è tutto a posto. Ma se fosse così con le telecamere, allora è compito della polizia intervenire, prendere il pappone e condannarlo per istigazione alla prostituzione. Ma la vera tratta non avviene per strada alla luce del sole, amico mio, avviene in altri ambiti, ma non guardiamoci in faccia, dai. Ma sì, ma io ti dico che tendenzialmente sono d'accordo. Basta con questa roba, chiuse, su queste cose. Io sono d'accordo, io ti parlo dell'esperienza precisa di Rimini, che poi sono anche oltretutto in alcune zone, non vabbè, ci sono in alcune zone donne, ci saranno degli assembramenti, ci sono che male ti hanno fatto i trans, scusa, non ho capito. No, per ci sono i trans, che vuol dire? No, uguale, no? Se dirti, c'è un trans oppure una, che in alcune zone creano veramente anche molto degrado, e Rimini sì, su questa cosa, ma il degrado l'ha subita, amico mio, il degrado è un'altra roba, amico mio, il degrado è la roba buttata, no, le schifezze della pulizia delle strade che non c'è, quello è il degrado, ma non le puttane che prendono le imbarchi e le porti via, dai, su, ma no, qual è il degrado? Quando tu vai in alcune zone dove ci sono queste signorine, e al mattino trovi di tutto di più per terra, non è bello per una città che si fonda sul turismo delle famiglie. E allora facessero, siccome io non la possono eliminare, no, non la possono spostare, famiglie, facessero dei quartieri, facessero dei quartieri a luci rosse. Anche ma io infatti ti dico, su questo tendenzialmente sono concorde, ma non esserci ancora la legislazione a livello nazionale. Vabbè, ripeto, Gaetano Rimini, vai, Gaetano. Allora, io sono a smentire totalmente l'amico che mi ha preceduto. Innanzi, lo smentiamo, io chiamo da Rimini, così facciamo prima. Sì, però Rimini, per essere pragmatici, la prostituzione in Italia è a livello anacronistico come il radiogiornale del traffico, è la stessa cosa. Il problema è un altro, dal mio punto di vista. Perché aprire? Perché questa è una cosa bizzarra. È bizzarro perché Gnassi, tutto sommato, è un ottimo sindaco, ma mi puzza di marchetta natalizia, perché aprile ricomincia l'estate ed è un problema ingestibile. Adesso d'inverno, con le strade deserte e poco traffico, rimane facile fare queste cose, ma è una scenetta, è un bluff. Cioè, in che senso? Ah, perché, perché adesso la situazione si può controllare di più, dici? Ma assolutamente sì. E poi un'altra poi, cosa. Scusa, non ho capito, la lotta alla prostituzione a mesi alternati? Cioè, appunto, adesso va bene, proviamo, dopo no? Facciamo, siete sì, dei sì, buffoni, siete ma dei buffoni. Posso aggiungere un dettaglio? Dimmi. Un dettaglio. L'ascoltatore di prima diceva Rimini ne ha avuto di svantaggio. Allora, Rimini dall'88 al 94, nell'estate, aveva più presenze di Miami. È risaputo. Le prostitute erano ovunque, ovunque. Comunque vuol dire ovunque. Adesso che non ci sono più, che la situazione sicuramente è più triste, più brutta, non fa più quei numeri. Colpa della prostituzione di prima. Questo è inammissibile. Se tu dici questa più puttane e più turisti. No, no, non dico questo, però che non c'è la correlazione, come diceva l'ascoltatore di prima. Va questo bene. È assolutamente Maurizio, assurdo. Provincia di Latina. Maurizio, vedi, io già devo chiudere qua, perché c'è adesso un'altra. Ma già devo chiudere, capisci qual è la follia? Gente inutile, gente la che dovrebbe lavorare. Maurizio, provincia di Latina. Ma guarda, ragazzi, sono furibondo io. Allora, volevo solo dire una cosa a proposito di quel poveraccio che è stato adesso deve affrontare questioni legali per aver cercato di intervenire in occasione del furto. Allora, io racconto la mia. A me è capitato svariati anni fa che in piena notte sono stato svegliato da urla che chiedevano aiuto. Era praticamente una ragazza che era malmenata. Io ho preso la prima cosa che ho fatto, c'ho una racchetta perché gioco a tennis all'epoca. Che hai fatto? Sono sceso giù cercando di cercare di aiutarla. Quelli, sì, vabbè, m'han visto, ma l'hai colpito? Scappati. Ah, sono scappati. No, sono scappati, però mi domandavo, innanzitutto, la prima così poi ho chiamato, avevo chiamato anche i carabinieri mentre stavo scendendo, però quelli sono arrivati dopo tipo 20 minuti. Lo sai che ti dico? Che se tu avessi colpito con una racchetta il ladro, l'aggressore, quello che era, e lo avessi mandato in ospedale, non ti sarebbe passata più. Ho rischiato di finire. Ma certo, ma ti facevano un bucio di culo così, amico mio, ma è chiaro, è così, è l'evidenza. Mentre tu stavi difendendo, magari dopo probabilmente te la saresti cavata. Ho chiamato anche il 118 perché quella ragazza era stata anche ferita. No, ma Maurizio, ti dico, se tu avessi dato un colpo con la racchetta a quella ragazza aggredita, sicuramente alla fine non ti sarebbe successo nulla, ma nel 80% degli anni, ma dopo vari anni, e intanto doveva nominare un avvocato, quello che ti denunciava per percosse, l'aggressore che cercava di provare che la reazione era stata eccessiva. Ma non è che cercava di provare, la realtà. Ma serve a questo, altrimenti si sparerebbe per strada. Ma che discorsi fai? Fermi lì. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Vai tu, se volete parlare al telefono con la Zanzara, da fallotto 00240024. Oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Naturalmente. Ieri sera alle Iene un servizio pubblico, la famosa trans la signora Efe Ball doveva anche affettarsi la signora Risi, l'amica di Giuse, l'amica tua, quella che fa i filmetti porno, la signora Risi, la signora Ball. Non sei riuscita perché gli hanno fatto la fondura all'attrezzo per farcelo alzare e l'hanno portato all'ospedale. Siamo al top, ragazzi! Un trans che si alzava e l'hanno dovuto portare a pronto soccorso quelli delle Iene. Ok, David, il racconto questa del gente, karma. Posso dirti, è incredibile questa gente. È incredibile il tempo che tu passi dietro a queste persone che sono... Che sono il racconto del karma? Che cosa è il racconto del karma? Che racconto è? È un disturbato, ma è una persona disturbata. Ma come perché? Ti ha descritto in poche parole. Cosa ti ha descritto il servizio delle Iene ieri sera su Efe Ball. Su Efe Ball, che a un certo punto gli fanno la punturina, signora Efe Ball, la punturina sul pisello per fare il film porno. E invece di completare l'opera, cioè di continuare a trombare durante il set, sul set, è costretto ad andare in ospedale, capito? Con questi effetti, senti. Ho capito perfettamente. Con questi effetti. Mi fa talmente male. Tu non hai idea come ce l'ho in questo momento. Sto per scoppiare. Poi mi ha dato prima Viagra. Attenzione, Sildenafil in bocca. Io avevo preso già il mio e adesso sto morendo. Cioè, capito? Era piena di Viagra. Sì, beh, non è un problema internazionale il fatto, stiamo trasformando quello che è accaduto però, a questa signora, che del suo mestiere, che conosciamo però, benissimo. Vedi, che... La cosa incredibile è che tu passi, no? Dovresti essere orgoglioso di questo. Tu passi a discutere a pranzo, visto davanti a un bicchiere di vino, davanti a colmare dietro di Tel Aviv, meraviglioso. Colazione ottima, una colazione, quello che è, d'accordo? No, era una colazione, non era un pranzo. Col signor Yoshua, Aleph Beth Yoshua, grande scrittore, uno dei più grandi intellettuali. A parlare con Efe Ball, magari più tardi la chiamiamo. Questo è il punto. Ha detto, ma oltre alla televisione ho visto, mi diceva Yoshua in inglese, che fai anche uno show radiofonico. Ah, così detto, ti ha detto? Sì, certo. Ha visto tutto sui... E non ho capito esattamente le parole. Dico, guarda, professore, che lui ha insegnato molto a Haifa, l'università di Haifa. Sì, vabbè. Dico, guarda, professore, sì, è uno show... Mi dicono che è molto popolare lì in Italia. Ma di cosa si tratta esattamente? Ma dico, guarda, è un format in cui ci sono delle persone che telefonano. Ah, interessante. E affrontate anche i problemi del Middle East? Ma dico, in un certo senso, tutto imbarazzato, in un certo senso. Allora me lo farò tradurre. Dico, professore, non oggi però, non oggi. Fammi ripartire in Italia, poi dopo lo... Dai, dai. Allora ragazzi, a proposito di notizie incredibili degli ultimi giorni, come sai il signor Grasso, presidente del Senato, è il leader di questa nuova formazione politica che si chiama Liberi Uguali. Credo che tu voterai per il signor Grasso, possiamo già dare un'anticipazione. Però sei un po' stimolato, sei un po' tentato, sei tentato dalla formazione del signor Grasso. No, come tu sai io penso che io sono molto vicino a Emma Bonino, al suo movimento per l'Europa. Ma che cazzo c'entra? Quelli voteranno PD, voteranno. Comunque vabbè. Non sei tentato da Grasso. Vabbè, non ti imbarazzare, adesso sei un po' imbarazzato, mi sembra. Devo capire bene, te lo direi. Ma non la questione oggi non è quella. La questione incredibile è innanzitutto che qualcuno attacca qualcuno di Renzi e che si occupa di televisione, non dico nemmeno di che cosa fa parte perché non mi interessa. Attaccano Fazio perché ha ospitato Grasso. Ma ragazzi, Fazio, ma siete impazziti? Siete Fazio? Pazzi? Ma ha ospitato Fazio e Grasso come prima ha ospitato Renzi? L'acquario ha ospitato. Ah, tu dici che non c'era manco il conduttore nemmeno in questo caso. L'ho visto anche lì, ero via, è vero. Cioè tu dici è inutile che attaccano Grasso, dovrebbero attaccare i pesci dell'acquario. L'acquario, sì, dovrebbero attaccare, esatto. Sì, poi, ci sono le femministe. Poi ci sono, amico mio, le femministe. Le femministe. Se non ora quando, non so quale altra associazione. Se non ora? Se non ora domani. Ma non lo so quando. Il corpo delle donne. Ma non c'entra niente il corpo delle donne. Lo sai perché attaccano? Perché non c'è la parola, perché è maschilista lo slogan, liberi, il nome del liberi. Partito. Poi Grasso dice che quella E che c'è è anche la giunta femminile, secondo me se lo sono inventato all'ultimo minuto. E poi anche che durante l'intervista con l'Acquario ha detto Libe, ha detto che le donne, ha paragonato le donne a delle foglioline. Allora dice no, non ci possono pagare ora delle foglioline. Ragazzi, che quello che siete, assurdo. Associazioni femministe, avete rotto il cazzo. Chiaro? Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Solo questo bisogna dire, avete rotto i coglioni. Scioglietevi, non c'è bisogno di queste associazioni femministe che si occupano dei diritti delle donne. Scioglietevi, tanto non serve a un cazzo. Tutte le cose che sono state fatte non sono state grazie al vostro intervento. Avete semplicemente rotto i coglioni, andate a vedere qualsiasi cosa, soprattutto la più inutile. Basta. Tra l'altro nella manifestazione sotto Repubblica oggi ho visto anche delle bandiere comuniste che mi è dispiaciuto non andare, ovviamente, perché sono atterrato tardi da Tel Aviv, se no ci sarei andato. C'erano delle bandiere comuniste che manifestavano contro i fascisti. Un gioco abbastanza bizzarro. Cioè, Una cosa abbastanza. Cioè, bandiere comuniste con la falce e martello che manifestavano contro i fascisti. Ma ha abbattuto il fascismo, questo non c'è dubbio. Ma questo è la storia, però, non mi pare. Non ha abbattuto il comunismo, non ha abbattuto il fascismo? Marco, provincia di Monza, vai Marco, vai. Marco, dimmi. Ciao, voglio dire che dire nel quello... mio paese, l'entate sul Seveso, la prostituzione avviene sulle strade sotto le finestre delle case. Sì. E dove queste ragazze non vengono sfruttate. Sicuramente qualcuno ci guadagna sopra. Però quando queste allora arrivano... Ma sicuramente, se qualcuno però... ci guadagna, le sfrutta. Insomma, su questo non c'è dubbio. Sì. Però allora come fai a dire che no? È un comodo perché arrivano con la loro macchina targata Romania, se ne vanno con la loro macchina, perciò se la cosa non le andasse bene prendono la macchina e se ne tornano a casa. Sì, non è così semplice naturalmente, ci sono dei vincoli che spesso si creano, delle dipendenze, dei legami che difficili da spezzare, per carità, nessuno dice che non c'è lo sfruttamento in alcuni casi, ma i sindaci non servono a un cazzo su questa roba qui, non servono a niente, altrimenti non farebbero le cose come a Rimini, ridicole, solo per qualche mese. Non c'entra niente che dicano la prostituzione è, non dico è immorale, però dicono la prostituzione significa sfruttamento, no, è libertà. Beh, in alcuni casi è sfruttamento di donne non libere, non in alcuni casi dirlo, sicuramente non fanno i sociologi, cioè non si occupano di società, i sindaci devono amministrare la città, è vero, i sindaci però devono occuparsi, come dire, Giovanni da Biella, vai Giovanni, della loro città, e questo Giovanni è occuparsi della città. Sì, buonasera dimmi buonasera Cruciani ha portato le cose talmente all'esasperazione che diventa veramente difficile seguire la vostra trasmissione. E vabbè, questo ce ne faremo una ragione. Certo, in passato era di estremo interesse. Vabbè, ma noi adesso non ci va di sentire i suoi rimbrotti sulla Zanzara. No, sinceramente non ce ne frega un cazzo. Lei deve sentire, lei che deve dare voce a tutti. Benissimo, infatti diamo voce anche a lei. Lei può intervenire tranquillamente e dire che non le piace questa trasmissione. Benissimo. No, non c'entra. La trasmissione poteva anche piacere. Poteva, adesso non le piace, però chiama. No. Adesso io sono libero di esprimere il mio pensiero. Lei è libero anche di chiudere il telefono, è libero di fare quello che vuole. No, non ho nessuna intenzione di chiuderlo, ho intenzione di esprimere il mio pensiero. Vada, lei vada lo deve lasciare. Ma lo deve adesso è una parola grossa, vai. Come no? Deve, dipende, se voglio sì, se, qui non c'è la democrazia. Ma se voglio, forse la libertà, la democrazia non è... Giovanni, non hai capito ancora, questa qua è la trasmissione più aperta e libera d'Italia, però comando io. Perfetto. Però comando allora, io, però comando libera. Io, però comando io, chiaro? No, se è libero non comanda nessuno. E che comanda lei? E che comanda lei? No, non comanda nessuno. Ah, non comanda nessuno. Parla di dignità per tutti. Ah, si parla di dignità per... Ma chi l'ha detta questa cosa? Ma chi l'ha detta questa cosa? Chi l'ha detta? Ma assolutamente, io decido quando interrompere il suo intervento, quando farla parlare, se farla parlare, se continuare. Allora, se è così, è una cosa tremenda che lei sarà tremenda, potere. Ma comunque, è così, tremenda questo, il potere. Io sennò... ho sempre apprezzato, posso andare avanti? Vai allora, pure. Ho sempre apprezzato Parenzo. Sì, caro, buonasera. Per la coerenza, l'obiettività. Guarda come slingua quest'altro. In contrapposizione alla sua volgarità, a quel vocabolario estremamente povero. Sì. Non si può parlare all'eterno di prostituzione, di prostitute, di sesso. Lei non va a puttane? Lei non va a puttane? No, nella maniera più assoluta. Non è mai, non sono un bacchettone. Non è mai andato a puttane in vita sua? No. Non ha mai avuto la tentazione? Più assoluta. Ma non dica mai così, mai. Mai, come nella mai maniera più assoluta. Bravo, non bene, benissimo. Farlo, ottimo, non vedi? Ma perché no? Vanno valorizzate queste persone faccio ogni che tanto, chiamano. Ma faccio ogni tanto una scopata con una prostituta, Giovanni? Nella maniera più assoluta. Perché? Perché? Me la faccio con le persone, perché io faccio l'amore, non faccio la scopata. Bravissimo. Amico mio, e le garantisco che non mi manca niente. Ho una rilevante esperienza. Sì. Non sono un bacchettone. Sì. Ho una ascendente. Ma perché lei criminalizza quelli che vanno a puttane? Ha detto, no, io non li criminalizzo in una maniera presunta. Dico che è un fenomeno orrendo. Anche se orrendo, è un fenomeno. Da 3.000 anni. Ma che fenomeno orrendo? È la libertà quella. Ma è la quale libertà? La libertà di usare gli altri, per carità. Ah, ecco, lo vedi che alla fine condanna lei. No, alla fine quello condanna. Che è pazzesco. Questa volta devo dare ragione a lei. Sì. Perché Parenzo, malgrado la sua coerenza, obiettività, allora, eccetera, si è dimostrato pazzescamente di parte con questa storia di Gerusalemme. Ma chi gliel'ha fatto fare a quel deficiente di Trump di sollevare un polverone pazzesco che ha costato già la vita a parecchie persone? Ha messo in atto una cosa, ha messo in atto quello che il congresso americano ha deciso 20 anni fa. Una decisione normale, Napoli doveva arrivare a venire prima. Per piacere, una decisione normale. Guardi che da quando pazzesco. Israele ha il controllo di Gerusalemme, l'accesso ai luoghi di culto, potete, siano essi cristiani parlare, o musulmani, potete parlare di Gerusalemme in è altri aperto ambiti? A tutti. No, ma solo no, per dire perché? Questo, potete da parlare... quando Gerusalemme è in sì, mano agli israeliani, dai. L'accesso ai luoghi di culto è garantito a tutti. Tutte le persone, perfetto, siano essi palestinesi, fermo lì, israeliani lì, fermo, o cattolici. Fermo. Allora ragazzi, io non so perché sono fissato, direte sono fissato, eccetera, tutto quello che volete, però, leggo, l'ho detto all'inizio della trasmissione, lo ripeto, spara ai ladri, denunciato anziano barista, il proprietario di un posto in provincia di Padova, se non sbaglio, Albignasego, è provincia di Padova, David? Sì, certo, Albignasego. No, Albignasego è una frazione di benissimo, Padova, spara certo. In aria sei colpi, quartiere, spara sì, in aria sei colpi con la sua doppietta, il signore ha 79 anni, i malviventi alla fine sono fuggiti abbandonando il bottino. È praticamente stato indagato per forse esplosioni pericolose, forse altre cose. Dovrà pagare un avvocato. Non ce la faccio più. Adesso cerchiamo di chiamare. Non so chi risponda a questo cellulare che abbiamo. Credo il figlio di questo signore. Perché lui non vuole più parlare, non vuole esporsi con i giornalisti. È indagato. Chiamiamo, vi prego, chiamiamo sto cellulare. Componiamo questo numero, non ne posso più. Pronto? Sì, pronto? Sì. Sì, parlo con Fabrizio? Sì. Chiamo da Radio 24, ciao. Ciao. Ciao Fabrizio. No, volevo sapere... quanto riguarda mio padre al bar? Sì, tuo padre al bar. Volevo sapere che cosa era successo, tu eri presente? No, io a mia proprietà là, ma non è successo niente, che è successo? No, cos'era successo? Cioè, io sono dalla parte... mi sembra che abbiano scritto già tanto su queste cose qua. No, lo so, ma io sono... Lasciatelo stare perché ha 79 anni, non so se avete letto. Sì, come no, certo, assolutamente. Esatto, e adesso è in defibrillazione. Ma io no... in che senso in defibrillazione? Che è successo? Per una cosa così. Lui è un diabetico e non ha bisogno di queste cose qua. No, ma io sono dalla parte sua, assolutamente. Cioè, non ma so... immagino come si fa a non stare dalla sua parte. però lasciatelo stare. No, ma la cosa più incredibile è il fatto che adesso, nonostante il fatto che abbia fatto scappare dei ladri, che hanno abbandonato il bottino, mi sembra, no? Da quello che ho letto. Ma è successo anche quando c'ero io, non fanno in tempo a portare via niente perché prendono la paura e vanno via. No, no, dico appunto, nonostante questo è lui a essere indagato. Ma certo. Come la trovo? Ho letto di una denuncia sul gazzettino, denuncia alla procura. Sì, sì, procurato falso allarme alla quiete pubblica. Ma questo qua come lo trova lei questa cosa, il fatto che suo padre è indagato? Assurda. Assurda. Cioè lei che cos'è che trova assurda in questa vicenda? Che cos'è che trova folle in questa vicenda? Che uno venga indagato perché sta difendendo la propria proprietà. Beh, quando questo però è un atto, come dire, non dovuto, normale. Male a nessuno. No, ma cioè, è normale però che non ha fatto male a nessuno, nel senso che ha sparato in aria. Io non le dico niente su questa cosa qua, non so neanche se ha sparato, perché io con mio padre devo ancora vederlo da quando è successo, perché io abito a 50 km, ci siamo sentiti per telefono, e l'ho sentito abbastanza agitato, lui ha diabete e gli è andato su. Lei è armato, caro? Io no. Lei no. Non è armato, ma secondo lei è giusto che uno spari dei colpi in aria per far fuggire i ladri? Se fosse successo a me, forse l'avrei fatto anch'io. Lei è prudente perché non si fida della giustizia? Esatto. Perché non si fida della giustizia? Allora, io ho venduto il bar, ho affittato il bar 2 anni fa. Sì. L'anno prima ho subito io la stessa cosa, ed era la quarta, quinta volta in poco tempo. Ho le telecamere dentro, vedo l'antisfondamento, io abito di fronte al bar e mio padre sopra. Sì. Telecamere hanno ripreso tutto. Allora, logicamente, lavorandoci su, gente di dovere poteva benissimo vedere il volto di questa gente. Sì, invece? No? Io avevo la chiavetta, bastava che venissero, come io ho interpellato, che facessero delle indagini, la chiavetta io ce l'ho ancora io, vedo lei. Per cui sono lei... passati 3 anni. Però lei dice non si fida del fatto che i ladri vengano presi, questo è il punto. Ma assolutamente, sono troppo piccole queste cose qua perché loro vadano dietro a queste persone qua. Secondo lei quando ci scappa il morto in questi casi... Ma insomma, è morto o un'altra cosa? No, dico quando ci scappa il morto è perché se la sono cercata? Beh, insomma, a me non spara dietro nessuno, mi sembra. Cioè nel senso che è un rischio... Io me ne sto a casa mia. È un rischio del lavoro, diciamo, è un rischio della... No. Se fa una cosa del genere, è logico che sa cosa va incontro. No, perché c'è stato anche il caso di quello che ha sparato alla... Ma loro comunque contano molto sul menefreghismo della gente. Tanto non è casa mia, lì sta bene, facciano quello che voglio. Loro contano su questo. Non c'è collaborazione tra di noi, cittadini. Comunque sparare è un deterrente per i ladri. Cioè quando sentono un'esplosione del genere scappano. Dunque, insomma. Dunque si può dire che serve. Secondo me è come mettersi fuori dalle finestre, urlare, andate via, assassini, fare casino, roba del genere. Non cambia nulla se si spara in aria. No, ma secondo lei è meglio armarsi? Bisognerebbe. Bisognerebbe. Però lei non è armato. No, io no. Ma io non ho capito, David. Secondo te è sbagliato sparare in aria come ha fatto questo signore? Non ho capito. Dipende bene. Dai mille contesti. Non mi pare che sia. Vedremo se sarà indagato. Certamente se uno spara, anche soltanto accertare se aveva il porto d'armi, in che condizioni indagati... questo è avvenuto, si chiama, ragazzi miei, stato di diritto. Se è esonata come dite voi, lui non si è difeso. No. No, no, ha semplicemente a casa sua. Ha sparato in aria. Sì, ha sparato. Lui è venuto una cosa istintiva, come quando avevo il locale io là sotto. Sì. E lo faceva per difendere il mio diritto di proprietà, perché io sono suo figlio. Certo. Adesso lui istintivamente ha visto questa cosa e l'ha fatto. Magari col senno di poi. Io gli ho parlato e ho detto, se che pensavo un attimo, a me, ai fini conti, di quelli che c'è sotto, adesso non me ne frega niente. Però è andata così. Comunque pare che gli vogliano ritirare il fucile, eh? E se gli ritirano il fucile, logicamente ci saranno indagini della procura per fare questo. No, ma quello sicuramente c'è un'indagine. Cioè, secondo lei non ci dovrebbe essere un'indagine? Secondo me no, si potrebbe chiarire anche diversamente. Cioè, lei dice... Non è successo niente, alla fine sono andati via, ci avevano fatto dei danni. La prossima volta le persone normali ci pensano prima di andare là, no? Beh, questo però è la legge. Io capisco il suo stato d'animo, però la legge dice No, però questo. Lui dice, quelli se ma ne sono Ma io ho capito cosa dice lui, mi va benissimo, posso essere anche d'accordo empaticamente, perché lui comunque è il figlio di quello che ha subito cioè, un signore questa violazione di in casa. No, ma se un signore spara anche legittimamente, infatti esiste la legittima difesa, comunque comunque va verificato come, ma non è una cosa così complicata. Sì, però lui dice giustamente, no, sì, lui il dice. Signore, il figlio del signore diciamo Gasparato, dice che la conclusione di questa vicenda è molto chiara. Ci sono dei ladri che sono scappati, nessuno è stato ferito. E siamo d'accordo. Si potrebbe, quindi, ma non ci deve essere. Come? Ma non ci deve essere nulla. La Zanzara, Cruciani fa una perizia. Cruciani, che è il capo del RIS di Parma e non conduce la Zanzara, ha deciso che non si deve aprire un fascicolo. Fabrizio, guarda che è curioso. Fabrizio però. Non ha capito. Non ha capito quello che voglio dire. Ha capito benissimo, Parenzo. No, ma non ha capito quello che voglio dire. Io sono molto più pratico, ha capito? Cioè, ma cosa vuol dire pratico? Ma la legge non è questione di come sei tu pratico, lo verifichi dalla Zanzara. Ma che discorso è? Innanzitutto la famiglia Borille, mi sembra, no? La famiglia si deve prendere un avvocato a questo punto, sbaglio? Esatto. Per cui la questione è molto semplice, dovete procurarvi un avvocato e dunque dovete già spendere dei soldi. Esatto. E mio padre vive con 800 euro al mese di pensione. E certo, ma lei ce l'ha i soldi per l'avvocato, per pagare l'avvocato? Mio padre non sicuro. Lei forse ce li ha, non lo so. Cioè, se possiamo fare. Io perché dovrei tirarli fuori questo punto qua? No, ma ha ragione lei, io guardi. Se prenderà l'avvocato d'ufficio? Ma guardi, che fin da ora le prometto che se vi serve, vi faccio avere un avvocato con i controcoglioni. Se dovesse servire. Ma a pagamento? A pagamento no, no, gratis, c'è un sacco di gente che si propone, non si preoccupi. Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci. You might as well set fire to your friends. But it ain't Alpha and Omega, it's just Nintendo and Sega. I'm a VR gone kid, here to flip your lid. I'm a stone cold fox spreading a bubonic pox. Ma quale far west, ma quale far west? A me poco fa mi ha chiamato mia moglie. Che tre stronzi sono entrati dentro il piazzale di casa. Se non c'era il vicino che ha sparato due botte per aria, erano entrati dentro casa con mia moglie e mia figlia. Ma che cazzo è stato a dire? Ma quale far west? Alle gambe gli dovevano sparare, alle gambe. La Zanzara. Tu sei il re della radio. Se tu fai video questa radio, io non sento più niente, chiudo. Hai capito, porco? Tu devi parlare di miappi, di fighe, di fighe. Ascolta, che tu ti sei allontanato. A me non me ne frega un cazzo. Ah, Cruciani, ma adesso non è che perché fai la radio, c'hai due spicci, guadagni due lire, così, sei sto cazzo de cervello, capito? Sei un celebro leso che gli ha detto culo, magari paraculato, de famiglia ricca, che si guadagna da vivere sparando quattro cazzate nella sua trasmissione radiofonica. Cioè, sei un prezzolato, per cui non fa tanto, non ce lo fa tanto il figo, capito? Cioè, avanti, va quello Mauro D'Amanto, va quell'altro avanti, no, ma hai rotto il cazzo, no, non vuol dire niente. Cioè, tu non sai ragionare, sei semplicemente un giullare. Cioè, tu sei una persona che ti ascolta semplicemente perché sei un giullare, perché sei un paradosso vivente. Cioè, sei una persona, sei un mentecatto celebroleso che non sa articolare due pensieri uno dietro l'altro, ma fa ridere alla gente annoiata che, siccome non può far altro che stanno in macchina che ascoltare la radio, dice: piuttosto che starmene zitto, sentirmi la musica, due coglioni, mi sento sto pagliaccio che mi intrattiene e mi sollazza. Quindi non fa tanto il figo, perché sei fondamentalmente di base un coglione, capito? Cioè, nessuno ti dà il titolo di erigerti, che ne so. Ah, dice, no, io ho un pensiero. Tu non c'hai un cazzo di pensiero, tu non sei un cazzo. Chiaro, mettetelo in testa, con simpatia, eh? Ragazzi, diamo spazio a tutti, anche a questi questo che ci tirano. Questo è il tuo Riccardo. Ognuno ha il proprio Mauro D'Amanto. A questo, peraltro, essendo una persona anche erudita, ma che vedi erudita? La differenza. Ma la erudita differenza di che è che cosa? I miei Mauro D'Amanto va contro di te, sono eruditi. I tuoi sono degli involuti. Ma stai anche scherzando? Sporchi, ma molto meglio Quirico, molto meglio Quirico di questi imbecilli qua. Questo è una persona anche colta cretino, che ti ha fatto degli appunti. Ma questo, così. Ma questo è un il tuo Mauro D'Amanto. Ma ognuno ha il proprio. Ma questo è semplicemente un deficiente, punto e basta. Cioè, è semplicemente un deficiente. A proposito, sempre la trasmissione Le Iene ha intervistato la signora Rina, Maria Concetta Rina, ottimo, and marito. è quello che aveva messo l'annuncio che non aveva più un euro e dunque voleva, chiedeva soldi con una colletta. L'abbiamo intervistato anche noi, no? E questi qua rivendicano di avere creato, di avere cercato di vendere delle cialde di caffè con la faccia del padre di Totò Riina. No, zio Totò, il caffè zio Totò. Ma che caffè è quello? No, però io dico una cosa, se la gente può vendere legittimamente la faccia di Hitler, se la gente può vendere tranquillamente la faccia di Mussolini o di altri, o le bandiere di Stalin o quello che volete, non si riesce a capire perché non si possa vendere il caffè zio Totò, come cazzo lo vogliono chiamare. Perché la figlia di Riina e il marito non possono vendere, c'è qualche matto che vuole le cialde di caffè con la faccia di Totò Riina? Se la compri pure. Perché però deve essere, sì, proibita, però, questa, no, cosa? No, ma possiamo dire che è veramente di cattivo gusto? Questo si può non almeno dire una cosa, ecco, così banale, non ti piace, però, il cattivo gusto? Non mi dire come... Ma allora, ho capito, ma quelli si chiamano Riina. Quelli si chiamano Riina. Va proibito, cioè non si fanno business sui criminali. Diciamolo, io lo dico. Ma guarda, che vuol dire? Se non ti va bene il cattivo gusto perché lo ritieni una cosa banale e lo ritengo di cattivo gusto, si proibisca lo sfruttamento dell'immagine di un criminale. Ma perché? Perché quello, ma perché? È di un assassino. E allora? Di, e allora, che ha ucciso. E allora che vuol dire? Non posso vendere la maglietta con scritto Totò Riina sopra? Mi pare uno sfruttamento idiota. Ma quella è la di figlia, un marchio, è la figlia di infamia. Ma che c'è? Cosa ma vuol è la dire? Figlia, voleva, ha è bisogno figlia, di ma soldi sul mio nome lordo di sangue del padre. No, non mi, va vietato. Ma va vietato che quello venda, che quello venda delle cialde di caffè. Non può zio essere Totò. Un marchio, non può bellissimo, essere un marchio. Bellissimo, zio Totò col marchio, col, Totò, con la faccia, sì, di Riina. Non vedo qua. Giustifichiamo tu. Ma io, giustifichiamo, scusami, no, ma se io tu. Giustifico giustamente la vendita di oggetti nazisti o fascisti. Ecco, ma io anche su quello, ma voglio dire, se vabbè, uno sentiamo vuole, la signora Riina, dai, sentiamo la signora. Vai su signora. Mi ci è venuto in mente questa cosa, abbiamo detto sfruttiamo internet, la ditta, non è che esiste che uno si inventa una ditta pop. Noi abbiamo inventato questa idea, perché per me non è una cosa di illegale, almeno non credo che sia illegale fare il caffè. Per fare pure un po' di polemica, diciamo la verità, perché noi ce l'immaginavamo il polverone che dovevamo alzare, perché mica siamo scemi fino a questo punto, giusto? E l'abbiamo fatto, diciamo, anche apposta, diciamo, vediamo. Che succede? Vediamo che succede. Queste cose che abbiamo fatto noi esistono, esiste l'amaro il padrino, esiste l'amaro Don Corleone. Se io me ne vengo con la cosa di dire aspetta un minuto e faccio il caffè Riina, critiche che piovono a valanga. Chi ha fatto l'amaro il padrino? Non lo so io. È il figlio del padrino? Non lo so, se non li so. Una bella sì, differenza. Però vabbè, gli altri le possono fare, mi scusi. Se è stata percepita come una cosa di cattivo gusto, chiediamo scusa agli italiani per questa cosa, magari potevamo evitarcela, nel senso, ecco. Tanto per dire la banalità, lo dice anche la figlia di Riina, che è di cattivo gusto. Tanto per dire, per riaffermare la banalità della, ecco, frase, no, ma meno è una male cosa che se di ne cattivo rende gusto. Ma meno male che se ne rende ma conto. Ma certo, perché che devono fare quelli là, che si chiama Riina, gli fanno e un culo così. Non possono trovarsi un lavoro normale, anziché, sì, usare, certo, la figura del padre per fare dei soldi. Ma ha detto giustamente, esiste l'amaro poi Don Corleone, manco lo sapevo. L'amaro Don Corleone esiste l'amaro, vabbè, non so che cosa è una goliardata, ci può ma stare che goliardata, la battuta, vogliono fare i soldi, stanno in mezzo alla merda, vogliono i soldi e dunque sfruttano il marchio di Riina, che cazzo vuoi, qualcuno, cioè, a te sembra normale? Ma non è mai normale, ma ti sembra corretto, giusto, rispetto alle persone che ha assassinato, diciamo, come si dovrebbero sentire secondo te le persone se che hanno fottono. Letto questa notizia e che hanno visto i loro parenti, fratelli, giudici, se ne fottono, sinceramente. Ma i parenti di Falcone, ma lasciamo stare i bighi, i grandi nomi, Borsellino, ma lasciamo stare Borsellino, tutti gli altri uccisi dalla mafia, come si dovrebbero se sentire fottono, quando te lo vanno, posso dire io. Vedono in vetrina il caffè Riina, dai, se non scherziamo fottono. Su se queste fottono. Cose, su. Se ne fottono, su. Andrea da Como, vai Andrea. Ciao Parenzo. Dimmi. Niente, volevo ritornare subito sul punto di Riina, un secondo, alla fin fine hanno, dato che l'avete citato al momento, che non ha torto alla fin fine comunque. Chi non ha torto? Eh beh, la signora Riina, alla fin fine è una maniera di guadagnarsi dei soldi. O ma sì, ma chi lei. Vuole se la compra, è tracciato, chi si compra la maglietta di Riina, la cialda di caffè con scritto sopra zio Totò, ma chi se ne frega, vabbè, ragazzi, dai, su. Vabbè, e diciamo sempre chi se ne frega. Vabbè, allora, tutto. Niente, volevo tornare sul discorso, comunque prostituzione, che hanno citato già un ragazzo detto intelligentemente, che non tutte le ragazze sono sfruttate, o comunque non tutte lo fanno perché sono nate dall'uovo o si sono state sfruttate. Sì, vabbè, questo l'abbiamo detto. Andrea, che cosa vuoi dire? No, niente, è tutto lì, non è che volevo girarci tanto intorno. Adesso, vai a puttane tu? Sì. Quanti anni hai? 23. Cioè, a 23 anni già vai a puttana, amico mio, sei precoce. Ma perché non puoi avere una sessualità normale, scusi? Scusi? In una città che è bellissima perché è pieno, ci saranno 8 chilometri di statale, pieno di prostitute. Ma perché lei non può avere una sessualità normale alla sua età? Io capisco, vecchi bavosi, persone disturbate come Mauro da Mantova. Ma fine mese è gazzosa, non è che... Cioè, non ho capito, quanto spendi a puttane? No, ma adesso non tanto, ma si fa un paio di volte al mese, via, 150 euro. Dai. A botta, 150 a botta, dici? No, 150 euro due volte, caspita. Ma che ne so, per strada o...? No, per strada è una scemata, per strada da noi 20-30 euro, non penso di più. 20-30 euro adesso, cioè... Ma sì. Sì. 20-30 euro, amico mio, 20-30 euro raccoglie la zozzeria per 20-30 euro. Così. No, 20-30 euro la sera ti fai delle romene che sono delle strafighe. Come no? Ma va, stai scherzando. Ma perché lei non può? Ma non si sente minimamente in vergogna per quello? Non sente un po' di vergogna per quello che fa? Ma perché? Ma io lo dico a tutti, ma cazzo, ma perché devi. Ma non sente una vergogna per l'idea di usare il corpo di una donna sicuramente sfruttata, allora, in questo caso? Perché... Discoteca. Ma che è sfruttata? Ma va, mi fermo a chiacchierare su metà slavo, oppure queste non è che lo fanno per preoccupazione. Ah, e quindi chiacchierano con lei e quindi non sono sfruttate. Ma non lo so, magari se non ho mai brutta, ma che brutta persona. Ma proprio. Insomma, io volevo fare questa domanda adesso, perché lei mi sembra uno che... No, dagli del tu, No, va benissimo. Sotto sei un po' volpe, no? Ma te da ragazzino non hai mai fatto queste scemate, queste goliardie, queste cazzate, mettila come vuoi. Ma non l'ha fatta perché si è nutrito di politica o non so di che altro, si è nutrito di altre cose, di libri, di filosofi. No, voglio dire, di da ragazzino cose. Per ridere posso aver fatto anch'io il cosiddetto puttan tour sicuramente con la mia Vespa, con i miei... ma dopodiché un conto è magari andare lì, vedere e poi andare via, ma vi assicuro che... Vabbè, non sei mai andato, non è un obbligo. Assolutamente voglio no. Voglio dire una cosa, scusami Andrea, tu hai 23 anni eccetera, ma tuo padre, tua madre, che ne so, lo sanno che ogni tanto frequenti questi signori? Mia mamma più apertamente, sa che sono andato transessuali, sa un po' tutto. Ma pure coi trans sei andato? Sì, pure coi trans. Perché coi trans? Quasi ci finivo fidanzato, ma stai scherzando? Ah, ti sei appassionato dei trans. Vedi che alla fine, David, i trans tirano. Cioè, quello è... Cos'è che ti attira? Lo sappiamo, questo non è una cosa nuova, ma amico a 23 mio, anni, cosa ti attira dei trans? Questo è anche curioso. Ma io penso che sul corpo di una donna un uccello mi attrae un casino, non so perché, ma sai che... è un disturbato. Perché lei è un disturbato? La risposta alla fine è diretta, è semplice, uno non deve allambicarsi troppo, come dire mi piace una persona o non mi piace, ci sto o non ci sto, mi piace o non mi piace, l'amo o non l'amo, la voglio o non la voglio. Lei è attratto da questo, è ampiamente disturbato, ma è un nome, un cognome, lei può chiedere a qualsiasi psicanalista, credo. Gli piace l'uccello nel corpo di una donna, perché deve essere disturbato ampiamente uno? Ma tutto legittimo, non c'è reato, tutto legittimo, ampiamente disturbato, però mi sembra normale, come normale, d'accordo. Assolutamente un disturbato, un disturbato. Vabbè, probabilmente ciao, voterà Partito Democratico, ma che questo vota Salvini tutta la vita, che voti tu Andrea? Che voti? Ma non voto, non lo so. Non voti. 5 non stelle, 5 stars, 5 stars. Forse 5 stelle. Ecco qua, allora benissimo, quindi possiamo fare il titolo, ottimo. Sì. I 5 stars perfetto. Vanno a puttane. Esatto, questo si chiama semplificazione. Com'è? Forse però... Direttore Sallusti, come lo farebbe il titolo lei domani? Ma è normale, chi va a puttane vota 5 stelle, ma è fattuale, mi pare. Ma sì, no, beh, uno è intervenuto adesso. Normale, è intervenuto uno alla trasmissione radiofonica Zanzara e è chiaro che... chi va a transessuali vota Movimento 5 Stelle, alle volte votano anche sinistra, ovviamente. Naturalmente. Sono divorziato dopo 17 anni e volevo fare un viaggio a buttare soldi. Casino e puttane, questa era la mia. E hai scelto Sofia? Vabbè. Hai scelto Sofia? Ho scelto Sofia che non si paga un cazzo. Ok. Ora però voglio passare velocemente dalle prostitute, argomento abituale della Zanzara, argomento che viene affrontato spesso, Parenzo, come sai, alla questione dell'utri, sì. molto rapidamente, poi torniamo ai nostri argomenti principali. Te lo dico subito, sai che io l'ho incontrato in carcere. Hai fatto un'intervista, l'ultima intervista di dell'utri, diciamo. L'ultima intervista video a dell'utri, si è anche scritta, e deve essere liberato, io te lo dico subito. Cioè, deve essere, secondo te, i giudici si sono impuntati su di lui perché si chiama dell'utri? Penso proprio di sì. No, cioè, mi pare abbastanza evidente. È evidente che lo vogliono tenere in carcere. Il fatto che lui sia un detenuto cosiddetto eccezionale, cioè il nome, la sua storia, lo tengono in carcere, un uomo che sicuramente meriterebbe di finire di scontare la pena a casa, questo senza ombra di dubbio, credo. Addirittura Bersani ha detto che dell'utri, se è messo così come dice, non può stare in galera. Ragazzi, io non lo so, come sapete conosco dell'utri da un sacco di tempo, non discuto della sua condanna sulla questione del concorso esterno perché ci sarebbe da discutere fino all'infinito, non lo so. Io faccio un paragone che è già stato fatto all'epoca, il signor Sofri o altre persone, come dire, de sinistra, molto appoggiati da certi ambienti, furono liberati perché stavano male. Non so se le condizioni sono uguali, sono diverse, eccetera, però mi sembra di poter dire che qualche discriminazione rispetto a due situazioni c'è. Poi ragazzi, ci sono tanti carcerati che non si chiamano dell'utri, che non si chiamano Sofri, che non si chiamano altri, che magari stanno in carcere nelle stesse condizioni, La Zanzara. In diretta sono. Ibrido. Parenzo. Quelli che vanno a trance a Mignotte sono dei miserabili. Invece Marazzo, perché è amico tuo. Quello non si tocca. Un grande amico. Sei un lecchino, hai capito? Ciao. Caro Peppe, siamo qua a Praga 205. Fra poco una Mignotte in onore di Parenzo. Riccardo da Salerno, ti amo Peppe, ciao. Parenzo alla lavagna, prendi il gessetto e scrivi 20 volte: l'unica donna che sai quanto ti costa è quella che paghi. Ovvio. È arrivata l'ora di Efebal, caro Davide, ci mancherebbe altro. Stavo quasi per preoccuparmi, dico, ma quando è che si ritorna finalmente a dar parola a qualche transessuale, a qualche pornostar? Lei in questo caso incarna entrambe le caratteristiche. Mi pare, no? Io direi di chiamarla perché c'è da capire questa cosa della punturina. Non perdiamo un attimo. Sorry, Efe? Eccomi. Qui la Zanzara, come andiamo? Efe fora di bal, come si dice? No, si potrebbe dire anche Efe fora di bal, come direbbe qualcuno. Ma anche... va bene, ridete. Guarda che un sempre giorno capiterà anche a voi, non sarete sempre giovani. Dopo 60 e 70, come Berlusconi lo fa, anche voi pomperete il cazzo con questa puntura. Signora cara, lei perché usa sempre questo linguaggio? Io non pompo proprio un bel nulla, perché sono felice e contento di ciò che la natura mi ha regalato. No, però, non pompo proprio niente, cara, gentile, educata signora. Vabbè, qualche volta ci vuole, quando ci vuole. Ma fora di bal. Tu prima di affrontare le telecamere, Vittoria Risi, la prestazione, avevi già preso il Viagra? Io avevo preso già un po' di Cialis, poi la regista mi ha dato Viagra. Pure. Poi, però attenzione, loro per questo film porno volevano prima scattare tante foto mentre lei mi succhiava, mentre io la toccavo, mentre ci baciavamo. E quei momenti lì sono passati più di un'ora mentre facevamo questa foto. Un'ora dovrebbe durare l'effetto ancora. Ovviamente, ma non è detto. Ovviamente un pochettino si è mosciato, diciamo così. Poi il regista sapeva già perché avevo già già affrontato questi tipi di problemi, mi ha detto: guarda, tutto il mondo di porno, a questo punto dovete anche chiamare signor Terza Gamba. No, ma dici Rocco? Dici Rocco? Ecco, Rocco Siffredi, secondo me anche lui e tutti i suoi amici, perché quanto mi ha detto questo regista, ormai tutto il mondo di porno non è, cioè, è tutto un'illusione. C'è questa punturina, non c'è nemmeno più Viagra. Ho capito, amica mia, però bisogna prenderla questa punturina qua. È una cosa pericolosissima, cioè bisogna farla sotto controllo. Ma certo. Cioè, lo so, in effetti questa è la cosa tragica. E perché quando ti hanno detto di fare la punturina hai accettato subito? Perché chiaramente... Ma io ero molto curiosa, ero un monodoso, quindi ti aprono proprio davanti ai tuoi occhi, siccome, ripeto, diversi miei clienti lo fanno. Ma com'è fare questa punturina? Chi te l'ha fatta? Regista? Regista, sì. Sì, esatto, la regista. Te l'ha fatta, cioè com'è? Entra proprio l'ago nel pisello, come mamma mettono? Mia, sì, però l'ago praticamente è ago di insulina, una cosa sottilissima, non lo senti neanche. E subito dopo che è successo? Dopo 15 minuti neanche, tu senti proprio un spizzico, un qualcosa nel pisello, dice: ma cosa mi sta succedendo? Tra l'altro c'è da 20, c'è da 10 e c'è da 5. Di cosa? La regista mi ha fatto di 20 miligrammi, credo. Esatto, di questa puntura, quindi più potente. Alla fine io dopo un'ora non sentivo più il pisello, cioè sentivo soltanto tanto dolore. Ma a noi cosa ci interessa di quello che sente la signora? Aspetta. Guarda, dopo un po' loro dicono: se vuoi che vuoi rilassarti, se vuoi che l'effetto vai via, dovresti per forza godere, cioè venire. Se non vieni, l'effetto rimane e lì dopo 12 ore, se non va giù, ti amputano il pisello. Ma voglio capire, com'era diventato il tuo pisello? Ma chi se ne frega? un sasso. No, ma dico, com'era? Perché sentivi dolore? Perché stavano scoppiando, sì, le... Cioè, per loro dovevo per forza venire. Ma io non riuscivo neanche a toccare il pisello. Ecco, punto. Perché era dolore, non lo sentivo più. Esatto. Nel frattempo, comunque, scopavo la vittoria. Per intenderci, almeno cercavo di di fare qualche cosa. Ma che porcherie sono, però, in generale, adesso? Ma io voglio dire, ma mi sembra tutto normale sta roba qui. Sei troppo bigotto, 2017 ormai. Ma non ho capito perché ci dovrebbe interessare la signora Efebal che fa il suo primo film porno. Ma chi se ne frega? Ciò che succede al mio pisello, ciò che interessa, c'è una puntura che fanno signori per andare a fare una trombata. Brava. E bisogna essere molto molto molto attenti. Sì, però scusa, tu adesso bisogna andare a fare una ricetta. Ma ho capito, amica mia, però tu hai fatto esattamente il contrario. Esatto. No, ma io mi sono fidata, però bisogna non fidarsi. In effetti sono finita in ospedale in pronto soccorso. Ma adesso, poi adesso come stai? Io oggi sto bene. Tra l'altro è una vergogna, vado in ospedale mentre avevo il pisello durissimo, all'improvviso aprono le porte del pronto soccorso, 50 persone davanti di me, io non avevo neanche le mutande. Perché capirai, lei signora, diciamo, non è nota per la riservatezza, però signora mia, sia tranquilla, lei non è proprio nota per essere una persona solitamente riservata. Si è spogliata nuda al Corriere della Sera, ha messo le mani sul palco al Sole 24 Ore a Cruciani. No, signora mia, lei tutto può dire tranne che si è scandalizzata, insomma, dai, fatemi arrabbiare. Due dottori al pronto soccorso bellissimi, giovanissimi, altissimi, che volevano fare con te, che volevano Mi ho spiegato che dovevo girare questo film porno, invece mi ha dato qualcosa di storto, che ero lì e allora mi hanno visto il pisello, la vergogna totale alle 11 ma di sera. Ma quale vergogna? Si spoglia nuda! Nei set, fare peggio cose, dice conto, una vergogna, ma conto, signora, un dai! Un conto per manifestare spogliarsi nuda, un conto invece andare a finire in pronto soccorso capisco, perché qualcuno aveva iniendato, mi sembra veramente incredibile. Ma com'è che l'hai chiamato? Coverjet, si chiama così. Non si chiama Alprostadil, come si chiama? No, quello è la sostanza che c'è dentro. Coverjet, proprio quello che è il nome, se volete andare a comprare dalla farmacia, si chiama Coverjet. Coverjet, ma no, è la punturina. Ma scusa, il condom l'avete usato o no? Il condom sì, certo, mentre scopavo. E suo marito, perché Vittoria ha anche un marito, anche un figo della Madonna, lui non voleva che usasse, nemmeno il regista, né il marito di Vittoria non volevano che usasse il preservativo. Ma che bella situazione. Ma che bello. No, perché è vero, perché famiglia modello per succhiare, ok, ma per ancora penetrare, ma signora mia, quello ma che fa lei, perché deve diventare sempre tutto di dominio pubblico? Parenzo, ti mandiamo, ho capito, ma non vivo tutta la vita a sapere cosa fa la signora Bal tutto il giorno. Meglio che in Italia, perché in Italia, sai, la gente è un po' più in avanti, eh. Scusa un attimo, ma io voglio capire una cosa, farai altri film porno o no? Io vorrei, però a quel punto lì magari una cosa un po' più seria, dove non mi bombardano, o che magari si gira prima di fare le foto, in modo che io ce l'ho pisello duro, ne faccio tutto, poi ancora se mai vogliono fare roba, le foto, allora lo facciamo le foto dopo che finiamo. Senti, però la cosa curiosa è questa, si avvicinano le elezioni, no? E la signora Efebal potrebbe anche avere qualche ambizione politica, Parenzo, perché no? Cioè, fin dei conti... Ma io sono state sempre di destra, e anche questa volta in primavera, se ci saranno elezioni, voto per la destra. Probabilmente voterò per Salvini. Un bel seggio, o no? Un bel seggio. La trans in Parlamento sarebbe spettacolare. Posso magari girare un film porno sopra? Pure in Parlamento. Un nuovo trans in Parlamento. Del resto in Parlamento c'è il transatlantico. Sicuramente sono molto meglio di Luxuria. Almeno non metto la parrucca, amore. La Luxuria mette la parrucca a 52 anni. Calva. Parla male pure delle altre. La più brutta che esiste in Italia. Tu lo vedresti bene in un film porno, Parenzo? No, ma così c'è? Ma assolutamente no. Parenzo potrebbe essere un film porno gay. Un film porno gay, no, quello però. Ma che sa lei? Quello no. Quello no. Interracial, quelle che fanno bianco e nero, no? Parenzo, possiamo usare come un oggetto dell'Europa, io della Turchia, possiamo trovare un altro attore o un'attrice, non so, dell'America, così possiamo fare una cosa. Senti, io non ho capito, ma stavi così male a un certo punto che ho visto che ti toccavi là, zoppicavi. Sì, non sentivo più il vabbè, mio però pivello. Possiamo dire che sono letteralmente cazzi suoi, come tanto per stare in materia. Di questo genere. Mi hanno succhiato anche 20 in un giorno, ma non ho mai avuto così tanto dolore in una giornata, in un momento sul mio pisello. È meglio andare con gli uomini o con le donne? Ma dipende, io sono bisex probabilmente. Qui vengono anche le coppie, perciò è impossibile che posso dire le che coppie. Vado soltanto con gli uomini. Le coppie che vengono, scopo marito e la moglie guarda e ride, gode di questa cosa qua, capisci? Parenzo, questa non è male, 2017 l'Italia, Parenzo. Questa è l'Italia. Che dico. Questa è l'Italia, Parenzo. Questa è l'Italia. Mi dispiace, Parenzo. Questa è l'Italia. Non è l'Italia. Come fate a dire questa è l'Italia? Oggi, l'Italia ha solo quei talenti. L'Italia sono quelle grandi imprese che investono all'estero. L'Italia sono i talenti delle università. L'Italia sono gli artigiani. L'Italia. Questa è l'Italia. Ciao. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Fatti paladino di questa crociata, Parenzo. Vibratore, vibra, non ti fermare. Parenzo. Vibratore, vibra, non ti fermare. Vi piace un mondo così? Vivere nel cassetto, troppi sogni da realizzare. A me fa cagare. Noia galoppa, ti viene incontro la tecnologia. Parenzo. Se la carne scarsa e già c'è la salsiccia di cortesia. E che cos'è? No, tengo un bel cazzo, non ti preoccupare. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Bella raga! Sto tornando, merdi! Uè, buscetta, tofu! A me che hai comprato il vestito non me ne frega un cazzo da 4.000 euro, ognuno fa quello che vuole, figurati. Io li spendo in bambe puttane, quindi figurati se ti giudico per il vestito, però sei una merda. Buscetta, t'ho detto, sei come il tofu, non servi a un cazzo, buscetta! Quanto è bello, Parenzo, parlare di soldi, dire non si parla di soldi, è volgare, villano, quando ce li hai e puoi fare il che cazzo che vuoi. Quanto è bello, Parenzo, e poi vieni a fare la morale, a rompere i coglioni alla gente. Ma sei una vergogna, ti devi vergognare, mettiti una maschera in faccia e vergognati per quello che hai detto. Si compra quello che ti serve senza badare a quanto costa, ma vattene a fanculo, Parenzo, veramente mi sei scaduto come uno yogurt scaduto. Allora, caro David, no, brutto, lo ripeto, che c'è, brutto, guarda, brutto. No, fai dico... tradurre a Yoshua questa cosa, no? Fai tradurre questa parte di trasmissione per il professor Yoshua. Yoshua si chiama. L'hai letto i suoi libri meravigliosi, Viaggio alla fine del millennio, insomma, libri straordinari che hanno segnato l'infanzia di tutti noi. Ma brutto, parlare del denaro è brutto, brutto, cioè è volgare. Ma sì, ma non ne parla chi non ne ha bisogno, dai. No, ma in generale non si parla di denaro, quanto costa e quanto hai speso del denaro. Il denaro è un mezzo, non è un fine. Non si parla di denaro, è inelegante, lo dico proprio come suggerimento a allora tutti c'è voi. Federico che mi chiama dalla Spezia e mi ha mandato un messaggio qualche minuto fa che va ti bene. Vuole spiegare esattamente credo che sia un ciao Federico è un medico chirurgo, sì, e ti vuole spiegare alla grande parità della zanzara che cosa sì. hanno fatto ad Efeball. Esattamente cosa hanno fatto a Efeball? Guarda, semplicissimo, è un'iniezione di fosfodiesterasi che è il cavo. Scusa, fatti capire bene, amico mio, se ne ascoltato la zanzara, però mettite bene, se no mi inchiappetto io come voleva fare Efeball con la risi. Sì. No, allora, diciamo che è un'iniezione intracavernosa, ok, dentro i corpi cavernosi del pene, sì. di fosfodiesterasi, che è il Caverjet. Ma che cos'è sta fosfodiesterasi? È che un vasodilattatore potentissimo. Potentissimo. Ma quello che si dice che si dice usava anche mamma Silvio mia. Si dice mamma mia. Si dice che usasse anche Silvio, però non è una cosa accertata. Adesso non mi puoi mettere in bocca cose che non no però perché io no, mica ho sei... avuto modo di iniettarlo su un sì. paio di pazienti sì. e si inietta alla base del pene sì. cioè tu l'hai fatto, aspetta, che è sto rumore che c'hai sotto, che stai, ti stai iniettando qualcosa nel pisello, che stai a fare? Che mi c'hai? Chiamando ti stanno chiamando spegni sto cazzo di telefono cavernosa alla base sì. del pene, mi ascolti? Sì, come no. E questa iniezione provoca una fase di dilatazione potentissima. Sì. E quindi affluisce il sangue passivamente. È pericolosissimo. Ma è pericoloso o no? Dimmi la verità. Ma no, non devi avere controindicazioni, nel senso che non devi essere un cardiopatico, non devi essere... Diciamo che devi avere prima fatto una visita, un check-up completo, hai capito? Tuttavia provoca un'iniezione fortissima. Io l'avevo fatta a un paziente, adesso ti do con indiscrezione, sì. l'avevo fatta un paio di volte a un paziente che doveva andare a puttane. Sì. Mi ha detto, vado in Svizzera, per favore Federico fammela. Ma quanto dura quell'effetto? Può durare da mezz'ora fino a un'ora e mezzo, ho capito, bomba, ma però ho capito, impressionante, come non scoraggiare l'uso di sta roba. Ma scusami Federico, scusami, no, è da provare adesso, io non fammi iniettare una cosa nel pisello, no, nemmeno se nemmeno Cruciani, se vuoi te l'hai inietto. No, per carità di Dio, no, assolutamente no, ma che provi, ma che sei magari matto, ne hai bisogno. Ma io no, quello sicuramente no, ma non ne ho paura, ho paura di farmi iniettare qualcosa, no, capisci? Meno male. Cioè, è bellissimo, aspetta un attimo. Ma chi è? Hai capito? E questa cosa qua è una l'unica cosa che è che quando se tu non hai un rapporto sessuale non serve a niente, hai capito? Vabbè, quello sicuro, certo, è fatto apposta. Ma scusa, ma come hai fatto a farlo? A questo qua gliel'ho iniettata e poi non è andata. Ma come hai fatto a fargliela questo quando poi dopo mezz'ora, un'ora finisce l'effetto? Questo doveva andare in Svizzera, scusa. No, inizia mezz'ora, poi può durare anche un po' di più, dipende dalla quantità che ne inietti, capito? Dipende dalla quantità. L'effetto che ha fatto alla base, del pene, cioè che significa? Cioè, proprio alla base del pene, dove inizia il corpo cavernoso. Sopra i testicoli. Tra il pube e l'inizio del prepuzio. Scusami un attimo, voglio capire una cosa. L'effetto che ha fatto la signora Ball. Magari a Parenzo gli potrebbe fare piacere. No, guardi, io per fortuna per ora funziona tutto, no, perché funziona tutto magnificamente. Qualora avessi dei problemi, magari mi orienterei a delle letture. Ecco, abbandonerei, come dire, l'agone. Magari è meglio un buon libro. Se la gente non vuole un abbandonare cinema, un teatro, il concetto è questo: se non ti tira col Viagra, col Cialis, con l'Evitro rossolubile, che è la pillola, la mentina dell'amore soprannominata, il Caverjet. Stop, ti fai l'iniezione direttamente. Ma scusa un attimo, ma che è successo allora ad Efeball concretamente? Se tu che sei un medico e ti intendi di queste cose. Efeball adesso non l'ho sentito integralmente. Dice che gli si è ingrossato, gli faceva un dolore pazzesco. Perché se non ne hai bisogno, oltre al tuo afflusso di sangue, tu provochi un altro vaso di dilatazione. Quella aveva preso pure Viagra. Niente, sia un accumulo, è come aprire una diga e contemporaneamente aprirne un'altra. Mamma e praticamente mia. Viene una fiumara incredibile. Mamma mia. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Stefano da Bologna, vai Stefano, vai. Ciao, volevo dire solo un paio di cose. Dimmi. Una in risposta a Parenzo. Su che? Oh, ehi. Stefano. Sì, mi senti? Che cazzo fai? Ti interrompi e poi riprendi, dai, forza. No, sentivo parlare. Dai, dimmi. No, volevo dire, prima Parenzo ha detto in occasione del nonnetto che ha sparato, poverino, per far scappare i ladri, che siamo in un paese di diritto. In realtà ormai siamo in un... Stefano, ma che cazzo c'hai? Ma che c'è? La gente che ti chiama? Chiama con telefono normale, sennò ti mando a fare in culo, dai. No, niente, allora, Francesco da Roma, dire... hai rotto le scatole. Francesco da Roma, dai. Pronto? Dimmi, Francesco, dimmi. Buonasera. È ridicolo comunque nel cosa? Paese in cui Calminati viene... non viene condannato dall'associazione mafiosa, che Dell'Utri venga anche liberato. Ma comunque, non, innanzitutto non viene liberato. Innanzitutto non viene liberato. Poi non ho capito, se possono uscire, ragazzi, io non lo so le cose, ma se tu non far scontare la pena, ragazzi, io non ho capito una cosa. Signor Parenzo, cioè, che cosa non ho capito? Non ho capito, ragazzi, Rina anche... Ma che c'entra? Non sento un cazzo, ragazzi, dai, non sento un cazzo. Ciao Francesco, hai rotto i coglioni, ciao, ciao, ciao. A proposito di Dell'Utri, io chiamerei una nostra vecchia conoscenza di una zanzara d'antan, il fratello gemello, signor Alberto. Signor la stessa Alberto voce, se non ricordo male. Uguale, identica, stessa voce. Pronto? Alberto? Sì, yes. Sono Cruciani, come stai? Ah, sì, sì, ciao, bene, bene, grazie. C'è anche Parenzo con me. Salve. Salutati, salutati tutti. Senti, Alberto, volevo sapere cosa ne pensavi di questa situazione che si è venuta a creare. Sei preoccupato per tuo fratello? Guarda, guarda, non mi fare parlare perché non sono sereno, direi cose certo. Che... No, lo so che non sei... Noi siamo per la scarcerazione. Ma non è, guarda, quello che adesso... Mi indignano è tutto il comportamento della giustiziocrazia. Cioè, secondo te non vogliono scarcerarlo per non per il diritto, diciamo, non per le norme, ma semplicemente perché lo stanno perseguitando? Mi sembra chiarissimo, mi sembra chiarissimo. Cioè, non viene comunque scarcerato perché si chiama Marcello Dell'Utri? Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio alcuno. Ma tu temi per la sua vita adesso? Cioè, perché che lui va fino in fondo, va fino in fondo con questa storia delle medicine che non prende o no? Certo, certo, lui è determinato, poi io spero soltanto che i figli possano convincerlo a recedere da questa decisione. Solo loro penso che possano intenerirlo in qualche maniera. Ma cos'è che può cambiare la situazione secondo te ormai? Ma questa situazione non la può gestire la giustizia perché già si è visto qual è la loro posizione. Questa è una situazione che soltanto la politica può. Cioè il Presidente della Repubblica? Ma il Presidente della Repubblica non credo che abbia voglia di prendere posizione, diciamo, così forte, così netta. Cioè con la grazia, dice, o con un provvedimento di... Ma la grazia poi non interessa Marcello, la grazia l'ha già detto, l'ha già dichiarato. Sì, no? Allora la politica come la può risolvere questa situazione? La politica è chiaramente convincendo quella parte legata... Che la giustizia a prendere decisioni più serie. Cioè tu dici che i politici più legati alla magistratura possono intervenire? Ma certo, sicuramente. Ma scusa un attimo, ma l'ultima volta che l'hai visto quando è stato tu? Ma da 10 giorni fa. 10 giorni fa, come ti è sembrato? Ma mi sembrava in forma, mi sembrava anche abbastanza fiducioso su un esito positivo delle sue richieste. Però evidentemente ha deluso molto questa decisione. Per le cure è necessario che esca dal carcere o no? Perché cioè, altrimenti uno deve dire che questi magistrati che non lo fanno uscire lo vogliono ammazzare. C'è una crudeltà fino a un certo punto, non fino addirittura arrivare a volerlo ammazzare, non ci credo, a questo non credo. Ma c'è del castigo da parte della magistratura, da parte di... Ma è un detenuto politico? Questo è evidente, no? Cioè, secondo te c'è una parte della magistratura lo vuole per forza morto in carcere? No, per forza vuol dire. Non vuole, diciamo, dargli soddisfazione di accettare le sue richieste. Poi, che lo voglia morto in carcere, questo non credo, insomma, che sia divertente. Senti, però poi il risultato sarebbe questo, però. La cosa che voglio sapere, qualcuno ha fatto un paragone tra la vicenda di Sofri... Sì. tra la vicenda di Sofri e altri detenuti, diciamo, eccellenti, che a un certo punto furono scarcerati per motivi di salute e dell'utri. Secondo te si può fare questo paragone? Beh, penso di sì. Cioè, per alcuni detenuti c'è stato Sofri del centrodestra. C'è stato un atteggiamento di favore? Sì, sì, sicuramente. Di favore, un atteggiamento di giustizia, quello che non c'è stato con Matteo. Ma sei pessimista su questa vicenda, sulla fine di questa vicenda? No, sono fatalista. Berlusconi può aiutare? Ma Berlusconi deve essere aiutato lui. Cioè? In che senso? Posso dire, questa è la classica battuta alla dell'utri. Proprio i gemelli, questa è la classica battuta. In che senso deve essere aiutato? C'ha i suoi problemi, c'ha i suoi guai, è chiaro. Non è che sia libero di muoversi come vorrebbe. Cioè, tu dici... c'è già abbastanza cazzi anche lui, possiamo sintetizzare così? Ma no, dobbiamo portare Berlusconi al Quirinale e allora lo libererete. Ma senti, solo con Berlusconi al Quirinale dici si può risolvere la cosa, perché farebbe subito un provvedimento di grazia, dici? Sì, ma quello che Marcello rifiuterebbe in ogni caso. Beh, rifiuterebbe, perché... sai, è difficile che rifiuterebbe. Non che mai rifiutare niente, amico mio. No, lo rifiuterebbe, la grazia non la vuole, non vuole pietà. Vabbè, ciao, grazie, sì. Ciao Alberto, sì, ciao, grande, la voce è sempre uguale, sembra identica. Di parlare con dell'utri, è pazzesco. Io, David Parenzo, voglio bene a dell'utri. Vecchia frase della Zanzara. Grazie per averla estrapolata, diciamo, da un contesto del quale si stava scherzando in una memorabile intervista che facemmo al senatore dell'Utri. Io ridendo dissi, io comunque l'avete estrapolata, comunque sì, sono per la scarcerazione di dell'Utri. Allora ragazzi, i giudici dicono le sue condizioni sono buone, si può curare in carcere, curarlo in carcere è possibile, ed è il carcere può ancora rieducarlo. Carcere può ancora rieducare. Questa è una motivazione molto. Ho capito, ma non si capisce perché ogni tanto i giudici. Tu dai sempre ragione ai giudici, in questo caso no. Dipende. Non è che do a prescindere. In questo caso, nel merito, è un signore molto anziano, malato di cuore. Tutto questo è accertato. Sì, certo, può prendere le pillole. Non ha ucciso nessuno. Può perfettamente finire di scontare la pena a casa. Mi parrebbe inumano tenerlo in carcere adesso, però. Marco da Roma, vai Marco. Sì, sentire parlare Parenzo di soldi è la conferma della sinistri benestanti. Io non parlo mai di soldi, ma non è questione di benestanti. Non parlo di denaro, non parlo di soldi. Devi sapere che anche lavorando, purtroppo, non basta alle famiglie. Ma che c'è da dire pubblicamente a casa? Uno è ovvio che magari se ha un problema è evidente che parla, no, di soldi. In generale, chiedere, dire ma quanto costa allora, quanto hai speso, mi pare morboso e inutile. È anche volgare. Dipende dal tuo portafoglio. Dipende solo da quello. Di educazione generale, che c'entra il portafoglio? Su, che c'entra educazione? Allora, quanto hai speso? Spocchia. Ma che te ne frega a te quanto ho speso io? Ho rubato? Carissimo. No, e allora che vuoi? Edoardo Rimini, no. Edoardo, ho capito. Ma Edoardo, che vuoi Rimini da me? Edoardo. Oh. Edoardo. Sì, pronto. Dimmi. Buonasera. Dimmi. Volevo intervenire sul fatto della prostituzione qua a Rimini. Allora? Penso, sono d'accordo con lei sul fatto che è libertà, ok. Però è anche vero che noi abbiamo un lungo mare qua, molto affollato di alberghi turistici, ormai è diventato quasi tutto l'anno grazie alla fiera che abbiamo. E allora? Vedersene una ogni 100 metri per 6 o 7 chilometri in lungomare non sia un gran bel vedere. Vabbè, vedere, che sarà mai? Non è che sono... cioè, vedere che cosa? No, una che sta lì, aspetta, una persona che cosa? La famosa storia dei bambini? I ragazzi? No, guardi, i piccolini che non possono vedere le prostitute? No, non è quello. E perché cosa, allora? Mi fa ridere quello che dice il sindaco Ignazio sul fatto. Ti fermi per 5 minuti di gloria e mi devo fare il carcere se mi prendono. Questo proprio penso che sia un'assurdità. Ma dai, sul carcere, le multe, tutte cazzate per fare sta propaganda, provato, dai. Esatto. Vabbè, allora sei a favore o contrario? Non ho capito. No, sono a favore per la libertà, ma arrivati a questo punto penso che sia troppo. Trovare una via di mezzo. Ma non quale so, via magari... di mezzo? L'unica cosa è legalizzare. Se non riuscite a legalizzare, esatto, liberi tutti. Esatto, ciao ragazzi, esatto, a domani. Esatto, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, a casa, lei lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io, David Parenzo, voglio bene a dell'utri.